Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Dumby Tam, che era dietro di lui, rimase sbalordito. Quella dichiarazione provocò un'enorme impressione. Lasciateli andare, perché io che non vi ho mai ingannato so che è la cosa migliore da fare, insistette Jim. Ci fu silenzio. Nell'oscurità del cortile si sentivano il mormorio sommesso e il rumore dei passi strascicati di molte persone. Doramin alzò il pesante capo e disse che leggere nel cuore degli uomini era come toccare il cielo con la mano, ma tuttavia egli acconsentiva. Gli altri espressero di volta in volta la loro opinione. «È la cosa migliore, lasciamoli andare», e così via. Ma la maggior parte di loro si limitarono a dire che credevano in Tuan Jim. Era evidente che non diffidava di Brown. Non c'era motivo di dubitare della storia che aveva raccontato, la cui autenticità sembrava provata dalla sua rozza franchezza, da quella sorta di virile sincerità con cui accettava la moralità e le conseguenze dei suoi atti. Ma Jim non conosceva l'egotismo quasi inconcepibile di quell'uomo che reagiva con la furia scatenata e vendicativa di un autocrate frustrato a tutto ciò che si opponeva alla sua volontà. D'altro canto, Jim, pur non sospettando di Brown, si preoccupava evidentemente che non si verificasse qualche malinteso, sfociando magari in uno scontro e in uno spargimento di sangue. Fu per questo motivo che, non appena i capi malesi se ne furono andati, chiese a Gemma qualcosa da mangiare, perché sarebbe uscito dal forte per assumere il comando della città. Dumby Tam seguì il padrone all'imbarcadero fuori dalla cinta del forte. Quella notte Dumby Tam ebbe molto da fare alla pagaia della canoa e dovette faticare parecchio per tenere il passo del padrone. Camminarono su e giù per la strada dove ardevano i fuochi e verso l'interno fino ai limiti della città dove piccoli gruppi di uomini facevano la guardia nei campi. Tuan Jim dava ordini e veniva obbedito. Andarono infine alla palizzata del Rajà, che quella sera era presidiata da un distaccamento degli uomini di Jim. Nelle primissime ore di quella mattina, il vecchio Rajà era fuggito con molte delle sue donne in una piccola casa che aveva vicino a un villaggio della giungla, sulle rive di un corso d'acqua tributario. Lasciò dietro di sé Cassim, che aveva presidiato all'assemblea con la sua aria solerte e diligente per giustificare la diplomazia del giorno prima. Fu accolto con notevole freddezza, ma riuscì a conservare un'aria vigile pur nella sua sorridente tranquillità e si dichiarò molto soddisfatto quando Jim gli disse in tono risoluto che quella notte si proponeva di occupare la loro palizzata con i propri uomini. Quando il consiglio si sciolse, lo si sentì parlare con diversi capovillaggio che si allontanavano a dir loro con voce alta e soddisfatta che la proprietà del Rajà veniva protetta durante la sua assenza. Verso le 10 gli uomini di Jim entrarono nel recinto. La palizzata dominava l'imboccatura del fossato e Jim intendeva restarci fino a che non fosse passato Brown. Un piccolo fuoco fu acceso sullo spiazzo erboso al di fuori dello steccato e davanti ad esso Dumby Tam pose un piccolo sgabello pieghevole per il suo padrone. Jim gli disse di provare a riposare. Dumby Tam dispose una stuoia e vi si distese sopra poco distante, ma non riuscì a dormire, anche se sapeva che prima che finisse la notte doveva partire per un'importante missione. Il suo padrone camminò su e giù davanti al fuoco a testa bassa e con le mani dietro la schiena. Aveva un'espressione triste. Ogni volta che si avvicinava a lui, Dumby Tam fingeva di dormire, non volendo far sapere al padrone che lo stava osservando. Alla fine, Jim si fermò davanti a lui e disse piano: «E ora?» Dumby Tam si alzò subito per prepararsi alla partenza. Il suo compito era di scendere lungo il fiume un'ora circa prima del momento in cui sarebbe passata la barca di Brown e di comunicare a Dane Warris in forma solenne e perentoria che i bianchi potevano passare indisturbati. Per quell'incarico, Jim non si sarebbe fidato di altri che di lui. Ma prima di andare, Dumby Tam gli chiese un segno di riconoscimento, più che altro per dare a quella missione una veste di ufficialità, dal momento che la sua posizione al servizio di Jim era ben nota a tutti. «Perché Tuan», disse, «il messaggio è importante, e sono le tue stesse parole quelle che porto con me». Il suo padrone si frugò nelle tasche, prima in una e poi nell'altra, e infine si tolse l'anello d'argento di Stein che normalmente portava all'indice e lo diede a Dumby Tam. Quando questi partì per la sua missione, il campo di Brown sulla collinetta era completamente buio, con l'eccezione di una piccola luce che filtrava attraverso i rami di uno degli alberi tagliati dagli uomini bianchi. Nelle prime ore della sera Brown aveva ricevuto da Jim un foglietto ripiegato su cui era scritto: «Avrete la strada libera. Partite non appena la vostra barca potrà galleggiare con l'acqua alta della mattina. Che i suoi uomini siano cauti. I cespugli ai due lati del fossato e la fortificazione all'imboccatura sono pieni di uomini armati fino ai denti. Non avreste scampo e non credo che vogliate uno spargimento di sangue». Dopo averlo letto, Brown lo stracciò in piccoli pezzi e, rivolgendosi a Cornelius che gliel'aveva portato, disse in tono di scherno: «Addio, mio eccellente amico». Per tutto il pomeriggio Cornelius era stato al forte e si era aggirato vicino alla casa di Jim. Jim lo scelse per consegnare il biglietto perché sapeva l'inglese ed, essendo conosciuto da Brown, difficilmente gli avrebbero sparato addosso per un errore dovuto al nervosismo, come poteva forse capitare a un malese che si fosse avvicinato al campo nella luce incerta del crepuscolo. Dopo aver recapitato il foglio, Cornelius non se ne andò. Brown era seduto davanti a un minuscolo fuoco e tutti gli altri erano sdraiati. «Potrei dirle qualcosa che le piacerebbe sapere», bofonchiò Cornelius con tono stizzoso. Brown non gli diede retta. «Non l'ha ucciso», proseguì l'altro. «E adesso che cosa ha ottenuto? Avrebbe potuto ottenere denaro dal Rajà oltre a saccheggiare tutte le case bugie, e invece non ne ricava niente». «Faresti meglio a fidar via di qui», ruggì Brown senza neppure guardarlo. Ma Cornelius gli si chinò al fianco e cominciò a parlargli rapidamente a bassa voce, toccandogli il gomito di tanto in tanto. Ciò che gli disse fece rizzare immediatamente la schiena a Brown, che proruppe in un'imprecazione. Aveva appreso dal gruppo armato di Dane Warris che si trovava a valle del fiume. Dapprima Brown si vide completamente ingannato e tradito, ma dopo un momento di riflessione si convinse che non poteva esserci malafede. Non disse nulla, e dopo un po' Cornelius osservò, con la massima indifferenza, che c'era un'altra via per uscire dal fiume che egli conosceva bene. «Buono a sapersi», disse Brown, aguzzando le orecchie. Cornelius si fece promettere che se avesse guidato Brown per quella via gli avrebbero portato a rimorchio la canoa. «Dovrò tornare velocemente», spiegò. Due ore prima dell'alba le sentinelle fuori dalla palizzata comunicarono che i banditi bianchi stavano scendendo la loro barca. In pochissimo tempo tutti gli uomini armati furono allerta da un capo all'altro di Patusan, anche se le rive del fiume rimasero così silenziose che se non fosse stato per un improvviso ravvivarsi dei fuochi accesi si sarebbe detto che la città fosse addormentata come in tempo di pace. Una fitta bruma gravava bassa sull'acqua, dando l'illusione di una specie di luce grigia che copriva tutto. Così Brown, invisibile nella foschia, esce da Patusan a stretto contatto di gomito con Cornelius nella camera di poppa della barcaccia. La barca sembrava immobile. Non si vedeva nulla, neppure il fiume sotto di loro. Solo quell'umida polverina bigia che volava e si addensava e gocciolava giù per la faccia e la barba. «Era una cosa irreale», mi disse Brown. «Ognuno di loro aveva l'impressione di essere solo in un'imbarcazione alla deriva, tormentato dal dubbio di essere circondato dai sospiri e dai mormorii di fantasmi sfuggenti». «Ah sì? Mi vuole buttare fuori? Ma io saprei dove mi trovo», borbottò stizzosamente Cornelius. «Sono molti anni che vivo qui». «Non abbastanza da trovare la strada con questa nebbia», disse Brown, allungandosi all'indietro e muovendo a destra e a sinistra l'inutile timone. «Sì, abbastanza anche per questo», ringhiò Cornelius. «Cosa assai utile», commentò ironicamente Brown. «Devo credere che riusciresti a trovare ad occhi chiusi quel passaggio di cui hai parlato?» Cornelius grugnì. Dopo una pausa di silenzio chiese: «Siete troppo stanchi per remare?» «No, per Dio!» urlò improvvisamente Brown. «Forza con i remi laggiù!» Senza dire una parola, Cornelius gli prese la barra del timone. Thank you. Brown ordinò ai suoi uomini di caricare le armi. «Avete la possibilità di rendergli la pariglia prima di andarvene. Banda di incapaci che non siete altro», disse alla sua cricca. «Badate non sprecarla, cani bastardi!» Quell'esortazione ebbe come risposta dei cupi grugniti. Cornelius rivolse la sua attenzione alla canoa, con preoccupati piagnistei. Nel frattempo Tambitam era giunto alla fine del suo viaggio. La nebbia lo aveva leggermente attardato, ma aveva remato con un ritmo costante, tenendosi vicino alla sponda meridionale. La bruma era ancora fitta sull'acqua, ma la guardia era attenta, perché quando Tambitam si avvicinò al campo, le figure di due uomini emersero da quel bianco vapore e le loro voci lo apostrofarono aspramente. Rispose e gli si avvicinò immediatamente una canoa. I tre vogatori si scambiarono le notizie, tutto andava bene. Il problema era risolto. Tambitam proseguì finché non udì delle voci che venivano quiete al di là dell'acqua e vide nella foschia, che ormai si stava alzando in mulinelli di vapore, i bagliori di molti piccoli fuochi che bruciavano su un tratto sabbioso, alimentati con lunghi rami e sottili cespugli secchi. Anche lì la guardia era allerta, perché di nuovo gli fu intimato l'altolà. Urlò il suo nome e contemporaneamente diede i due ultimi colpi di pagaia per toccare terra. Con un'aria piena di sussiego, Tambitam chiese di essere condotto a Dane Warris. Trovò l'amico del suo signore bianco sdraiato su un giaciglio di bambù rialzato dal suolo, protetto da stuoie appoggiate su paletti. Dane Warris era sveglio. Un allegro fuoco era acceso vicino a quel suo giaciglio che assomigliava ad un primitivo santuario. L'unico figlio del Nakoda, Dormin, rispose gentilmente al suo saluto. Tambitam gli porse subito l'anello, che testimoniava dell'autenticità delle parole del messaggero. Appoggiandosi sul gomito, Dane Warris gli domandò di comunicargli tutto ciò che sapeva. Cominciando con la formula consacrata «Le notizie sono buone», Tambitam ripeté le parole di Jim. I bianchi che erano partiti con il consenso dei capi potevano passare lungo il fiume. Quindi, in risposta a un paio di domande, Tambitam riferì che cosa era avvenuto nell'ultimo consiglio. Dane Warris ascoltò attentamente fino in fondo, giocherellando con l'anello che infine si infilò sull'indice della mano destra. Poi, dopo che ebbe sentito tutto ciò che Tambitam aveva da dire, lo congedò per permettergli di rifocillarsi e riposarsi. Fu allora che Brown si vendicò di quel mondo che, dopo 20 anni di disprezzo e di incuranti prepotenze, si era rifiutato di pagargli il tributo del successo di un volgare bandito. Fu un atto di ferocia a sangue freddo che lo consolò fin sul letto di morte come il ricordo di una sfida temeraria. Furtivamente fece sbarcare i suoi uomini sull'altro lato dell'isola che si trovava di fronte al campo bugi e alla loro testa la traversò. Dopo una zuffa breve ma silenziosa, Cornelius, che al momento dello sbarco aveva cercato di svignarsela, si rassegnò a far loro da guida indicando dove la macchia era meno fitta. Al margine della foresta gli uomini di Brown, pur rimanendo coperti, si disposero in attesa e in ordine sparso. Davanti ai loro occhi il campo si apriva in tutta la sua estensione e nessuno guardava nella loro direzione. Nessuno poteva neppure immaginare che i bianchi potessero essere a conoscenza dello stretto canale alle spalle dell'isola. Quando giudicò venuto il momento, Brown gridò «Dategli addosso!» e 14 spari risuonarono come un sol colpo. La sorpresa fu così grande, mi disse Tambi Tam, che ad eccezione dei morti e dei feriti nessuno si mosse per parecchio tempo dopo la prima scarica. Quindi un uomo strillò, e dopo di lui, da tutte le gole, si alzò un grande urlo di sbigottimento e di paura. Per tre volte gli uomini di Brown spararono nel mucchio, mentre Brown, l'unico allo scoperto, imprecava e ripeteva «Mirate basso, mirate basso!» Tambi Tam dice di aver capito fin dai primi colpi che cosa fosse successo. Pur illeso cadde a terra e vi rimase come se fosse morto, ma con gli occhi bene aperti. Ai primi spari, Dane Warris, che era reclinato sul suo giaciglio, balzò in piedi e corse fuori sulla riva, giusto in tempo per ricevere in fronte una pallottola della seconda scarica. Tambi Tam lo vide spalancare le braccia prima di cadere, e solo allora, dice, non prima, fu assalito da una grande paura. Gli uomini bianchi si ritirarono come erano arrivati, senza essere visti. Fu così che Brown saldò i conti con la mala sorte. Si noti che persino in questa orribile esplosione di ira si comportò con la superiorità dell'uomo che conserva il suo buon diritto, un diritto astratto, pur nascosto da un involucro di desideri comuni. Non fu un infame e volgare massacro, fu una lezione, una rivalsa, la dimostrazione di qualche lato oscuro e terribile che, temo, non sta così sotto la superficie come ci piacerebbe credere. In seguito i bianchi se ne vanno non visti da Tambi Tam e paiono sottrarsi del tutto allo sguardo degli uomini. La stessa goletta sembra svanire, come avviene per le cose rubate. Si narra però di una barcaccia bianca, raccolta un mese dopo nell'Oceano Indiano da un vapore mercantile, in cui due scheletri quasi ammutoliti, avvizziti, dallo sguardo fisso e dalla pelle gialla, mantenevano un atteggiamento obbediente e ossequioso nei confronti di un terzo, che disse di chiamarsi Brown. Questi dichiarò che la sua goletta, diretta a sud con un carico di zucchero giavanese, aveva avuto una brutta falla e gli era affondata sotto i piedi. Lui e i suoi compagni erano i superstiti di un equipaggio di 6 membri. I due morirono a bordo della nave che li aveva salvati. Brown sopravvisse fino a quando non lo vidi io, e posso testimoniare che sostenne la propria parte fino all'ultimo. Pare tuttavia che nell'andarsene non si erano preoccupati di sciogliere la canoa di Cornelius. Questi era stato liberato da Brown all'inizio della sparatoria con un calcio a mo' di viatico. Lanciava piccole grida. Improvvisamente si precipitò al fiume e fece sforzi frenetici per spingere in acqua una delle barche bugi. Poi, fino a che non mi notò, raccontò Tambi Tam, rimase a guardare la pesante canoa grattandosi la testa. «Che ne è stato di lui?» chiesi. Fissandomi con uno sguardo intenso, Tambi Tam fece un gesto espressivo con il braccio destro. «L'ho colpito 2 volte, Tuan», rispose. Quando vide che mi avvicinavo, si buttò violentemente a terra con un grande urlo, scalciando con le gambe. Strillava come una gallina terrorizzata, fino a che non sentì la punta. Poi rimase immobile a guardarmi, mentre la vita gli usciva dagli occhi. Ciò fatto, Tambi Tam non perse tempo. Capì l'importanza di essere il primo ad arrivare al forte, a dare la tremenda notizia. Naturalmente c'erano molti sopravvissuti nel gruppo di Dane Warris, ma erano sconvolti dal panico, e così alcuni avevano traversato a nuoto il fiume, altri si erano buttati nella macchia. In realtà non avevano capito da dove fossero venuti quei colpi, se fossero stati altri banditi bianchi, se avessero ormai conquistato l'intero paese. Si immaginavano vittime di un grande tradimento, consegnati a un destino di distruzione.